Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, finalmente siamo insieme perché oggi insieme a voi voglio andare in un territorio molto particolare. Insomma, vorrei esplorare insieme a voi una dimensione che ha a che fare con molti aspetti della nostra vita, con l'amicizia, con il lavoro, con l'amore. Sto parlando e sto pensando alla complicità. È una parola bella e complessa al tempo stesso. Tiene unite cose che possono completarsi ed integrarsi, però può anche generare alleanze un po' pericolose, a volte rischiose. Gli amanti, ad esempio, sono complici, ma sicuramente in modo molto diverso dal modo in cui lo sono due sposi. E anche chi fa azioni illegali, spesso si cerca un complice, no? Con cui condividere ciò che però, se riconosciuto, sarà sanzionato come un reato. Insomma, come in gran parte delle cose della vita, la complicità ha il suo lato A, ma anche il suo retro della medaglia. Ed io oggi vorrei proprio insieme a voi riflettere sui modelli di complicità sui quali volutamente o nostro malgrado siamo coinvolti in questo momento della nostra vita. Che genere di complicità state vivendo voi? È una complicità bella, salutare, stimolante, oppure una complicità un po' dannata? Ed eventualmente però mi piacerebbe sapere qual è la complicità che avreste invece voluto conoscere, raggiungere, perseguire e magari non ce l'avete fatta. Il nostro viaggio nel mondo della complicità avviene oggi non a caso e qui in studio ho uno dei miei complici per eccellenza. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, buona complicità a tutti. Complice Alberto in radio e sul lavoro, siamo diventati anche un po' complici nella vita perché nella nostra amicizia, dalla nostra amicizia è nata molta complicità. Sì, wow. Direi che io e te siamo proprio un bel esempio di complicità perché siamo partiti proprio come colleghi a fare un po' cose nel lavoro e adesso poi questa colleganza è diventata grande complicità e grande amicizia. Ecco, secondo te quando due persone capisci che sono complici? Ma secondo me quando intanto hai perso tutta la parte della formalità, cioè non c'è più bisogno di dirsi tutte quelle cose che ci si deve dire perché non sono più necessarie, e quello è già un bel salto di qualità. Il secondo aspetto che tiene uniti i complici è che si capiscono senza dirsi le cose. E questo tu vorresti, però io le dico lo stesso, ma soprattutto voglio dire che qui in linea con noi abbiamo due complici, ma di quelli veri, lo sono da sempre, ed ora la loro complicità è così, si è tradotta, così Alberto possiamo dire, è celebrata in un CD che li definisce tali, complici appunto. Saluto subito Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ovvero i Musica Nuda, un duo di fama direi internazionale, super internazionale. Ciao a tutte e due. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Ferruccio. Allora, io prima di farvi dire qualsiasi cosa, anche voi ci racconterete la vostra complicità nel lavoro, in famiglia, con gli amici, io voglio far sentire agli amici da casa la magica complicità che si nasconde nel vostro progetto musicale. Ascoltiamo proprio il brano Complici. Come fu? Una grande voce e un contrabbasso che creano una musica nuda di straordinario impatto e aggiungerei di grande complicità. Petra, come avete fatto a capire che voce e contrabbasso potevano essere due complici per l'appunto? Straordinari direi a sentirvi. Beh, non l'abbiamo capito prima di farlo, l'abbiamo capito facendolo. Ci siamo incontrati per caso su un palco e subito l'incontro dei nostri rispettivi strumenti ci ha lasciato sorpresi, ci ha lasciato subito, ci ha dato un grande entusiasmo per continuare. Non ci saremmo mai immaginati di raggiungere le cose, tutte le cose bellissime che stiamo facendo in questo periodo. Gli anni suoniamo in tutto il mondo, quindi tantissime cose belle, ma la complicità, quella, anche se ovviamente è cresciuta col tempo, c'era già sin dall'inizio, l'intesa e la capacità di affrontare, nel nostro caso, la musica, le canzoni, con lo stesso, nello stesso modo. Ferruccio, come hai capito? Perché Petra ci descrive proprio un incontro che è stato come un coup de foudre, no? Di complicità. Tu come hai capito che Petra poteva essere la voce che accompagnava che accompagnava il tuo contrabbasso? Ma quel pomeriggio, che quando nacque questo famoso duo Musica Nota, parliamo quindi di più di 8 anni fa. In un solo pomeriggio riuscimmo a mettere su più di 30-35 canzoni, chiaramente andando a pescare nel mondo delle cover, da Battisti o Sting piuttosto che i Beatles, eccetera, eccetera, perché poi la sera dovevamo fare un concerto in un piccolo club in Toscana. Sì. E quindi, sai com'è, mettere su un repertorio di 30 canzoni con una tale facilità, con una tale anche appunto entusiasmo, insomma, filava tutto liscio sin dal primo incontro. Poi, come ha detto giustamente Petra, e come del resto dicevate giustamente anche voi due, praticamente la complicità è inevitabilmente qualcosa che cresce con l'andare del tempo, no? Infatti, secondo me, una delle cose più belle che avete detto prima è che quando non c'è neanche più bisogno di parlare, quello accade anche tra me e Petra, a volte con uno sguardo ci capiamo e quindi si va avanti, si volta pagina. Alberto, tra l'altro il duo Petra e Ferruccio rende complici due cose che normalmente nessuno immagina come complici. La complicità nasce dalla similitudine oppure dalle differenze? Secondo te, qual è la complicità tra queste due forme che è più destinata a durare? Durano di più i complici che hanno proprio, no, un denominatore comune, o forse io e te proprio siamo diversissimi? Direi, guarda, hai già in qualche modo anticipato la risposta. Penso che la complicità che si basa sulla diversità è quella che permette una cosa che si chiama integrazione, per cui tu puoi mettere insieme due cose tra loro molto differenti, scoprire che diventano perfettamente complementari e in qualche modo si fondono, sono una cosa sola. Chi è invece complice per similitudine può vivere due esperienze molto diverse. La prima è quella della fusione totale, cioè dire io e te siamo una cosa sola è una grandissima garanzia, direi quasi per l'eternità. Ma se qualcosa viene ad incrinarsi dentro al meccanismo, scatta una cosa che è l'esatto contrario dell'integrazione, cioè diventa competizione. Cioè, se io e te siamo troppo simili e a un certo punto quella simmetria che ci ha reso un po' fusionali non funziona più, lì è dove scattano dei meccanismi spaventosi. E pensa che anche nei rapporti di coppia, cioè due persone uguali possono avere una coppia perfetta senza nessuna incrinatura che arriva fino alla fine della sua storia, ma se scatta qualcosa scoppiano delle guerre, dei conflitti che sono inimmaginabili per chi li sta vivendo, proprio non ci avevano neanche mai pensato, e lì probabilmente entra la dimensione della competizione. Petra, secondo te ci sono diverse forme di complicità o è una sola? Io penso alla complicità che hai con Ferruccio, però ce l'avrai diversa ad esempio con il tuo compagno oppure con l'amica del cuore. C'è un'essenza comune in tutta questa complicità o si articola a seconda delle persone con cui la sperimentiamo? Ma senz'altro è diversa a seconda appunto del tipo di rapporto che hai con l'altro che ti è complice in quel momento. Si è molto complici secondo me quando si vive molto insieme, perché per esempio i compagni di scuola di scuola e quindi l'amica del cuore di quel periodo lì, o comunque persone che si frequentano veramente nel quotidiano, quindi che hanno a che fare anche proprio con i problemi da affrontare quotidianamente, quindi appunto sì, può essere il compagno, può essere la persona, il collega, più che a quest'età credo, che l'amico che magari purtroppo per forza di cose vedi meno volte. Per quanto riguarda me e Ferruccio, senz'altro la nostra complicità è di tipo complementare, nel senso che siamo molto molto diversi. Quello che ci accomuna senz'altro è un certo modo di intendere la musica, un certo anche passato anche musicale, anche separatamente appunto di cose che abbiamo fatto in precedenza, e un'apertura nei confronti della musica che non ci fa mettere barriere, quindi abbiamo degli intenti comuni e un modo molto diverso di arrivarci a portarli avanti, a affrontare le cose, che però risulta in un duo, quindi in una coppia anche, risulta vincente, perché è come raddoppiare le possibilità di riuscire a fare una cosa, perché una volta posso avere ragione io, una volta può avere ragione lui, e quindi fidandosi dell'altro si riesce a raddoppiare le possibilità di avere ragione. Sì, io credo che quello che ci sta dicendo Petra è fondamentale anche un po' nel loro percorso artistico. Penso che loro abbiano fatto un'operazione che allo stesso tempo minimalissima e spregiudicatissima, perché tu prova a immaginarti un intero progetto musicale che dura da tantissimi anni, e tra l'altro mentre nei precedenti CD loro magari si sono fatti aiutare da qualche altro musicista, c'erano delle contaminazioni, c'erano altre complicità, adesso qua sono rimasti loro nudi e crudi, proprio purissimi, un contrabbasso, una voce e una grande originalità, perché contrariamente a quello che facevate prima, cioè le cover di successi di altri artisti, in questo album invece avete inediti, come si dice, Ferruccio. Eh sì, diciamo che per un gruppo sia così minimalista come Musica Nuda, un gruppo composto da 6 persone, cimentarsi con gli inediti è la prova del 9, perché è come se fosse uno scatto di maturità inevitabilmente per un musicista o per un autore. Questa voglia era sedimentata in noi da qualche anno a questa parte, tant'è vero che anche in qualche disco precedente qua e là c'era qualche traccia scritta sempre da me e Petro in collaborazione con degli amici, ma per la prima volta con complici, che un album di 14 tracce, ben 11 sono inediti, e quindi questo, ripeto, per noi è stata una grande prova del 9, ma nello stesso tempo non l'abbiamo fatto perché dovevamo dimostrare qualcosa a qualcuno, e semplicemente perché era venuto questo momento, questa voglia proprio da un punto di vista artistico di cimentarci con questi inediti che, tengo a precisare, 4 sono poi stati scritti da Magoni e Spinetti e gli altri da altri autori più o meno famosi, perché come diceva Petra la cosa più bella è poi l'apertura anche verso altri musicisti e non chiudersi in se stessi. Assolutamente, la complicità non deve farci poi chiudere nella coppia, anzi. Tra l'altro, a proposito, mi sono lasciata così trasportare un po' dalle parole dei nostri ospiti, e stavo pensando alle vari tipi di complicità, no? Che agisco nella mia quotidianità, ad esempio con Laura Vanossi in redazione siamo assolutamente complici, ci capiamo, ma noi chiacchieriamo anche molto. Però volevo invitare i nostri ascoltatori da casa a scriverci questa volta una email a esserebenestre@radio24.it per raccontarci, darci una ricetta o una definizione di complicità, perché sceglieremo una delle mail e faremo arrivare a casa dell'ascoltatore proprio il CD di Petra e Ferruccio. Alberto, tu non sei in gara però, te lo io, dico. Va bene, io perché mi sennò sarebbe una complicità. E io andrei ad ascoltare un brano che è piaciuto sia a me che ad Alberto, quasi a misurare la nostra complicità anche nei gusti musicali, anche se Alberto è molto più sapiente e raffinato, devo dire che è un po' il mio maestro. Si intitola I giorni di festa, e poi non l'abbiamo neanche scelta a casa perché da questo partiranno delle ulteriori riflessioni, come se ci fossero delle parole che vanno a finire, sono ingredienti fondamentali di quella complicità che ci fa stare bene. E c'eri già tu con le scarpine bianche, col sorriso che accendeva i tuoi occhi e bruciava il mio cuore. E c'eri già tu che profumavi al sole, con la gioia di chi guarda ogni sera il giorno che muore. nei giorni di festa racconta, descrive questa emozione che accomuna molti dei ricordi di noi quando eravamo piccoli, no? La complicità dei bambini forse avrebbe da insegnare molto alla complicità che a volte noi adulti non riusciamo più a creare o a ricreare. Allora lo chiedo a tutte e tre, forse questo è un tempo in cui sarebbe necessario tornare a dare priorità a valori che sembrano superati, perché un po' perché si cresce, un po' perché ci sono delle situazioni, no, che li mettono in discussione. Alberto. Guarda, a me della complicità dei bambini piace il fatto che o sei dentro o sei fuori, o sei con me o non ci sei, che a volte è crudelissima, però è anche totalmente onesta, perché quando i bambini fanno gruppo e diventano complici fra di loro, non c'è ricco e non c'è povero, non c'è bianco e non c'è nero, ci sono loro e la loro complicità, nient'altro. E allora anche Petra e Ferruccio ci racconteranno la loro complicità, il segreto della complicità, una complicità che ci fa stare bene, ci fa legare alle persone, tira forse fuori il meglio di noi. Adesso noi però andiamo a sentire i mercati, ricordate di scriverci una vostra definizione, il modo in cui vi sentite complici, la vostra ricetta, una vostra riflessione. Riceverete proprio a casa, uno di voi sarà selezionato per ricevere a casa il CD Complici, appunto. Essere e benessere. Rimando, rimando, rimando, rimando, io rimando, rimando tutto a domani. Rimando, io rimando, rimando, rimando, rimando sempre a domani. E piano un'altra volta, io chiudo un'altra porta. E prendiamo proprio spunto da Rimando, un brano del CD Complici di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che sono ancora in linea con noi, vero? Eccoli qua. Ferruccio, qua si parla, se vogliamo, ritroviamo anche un ingrediente della complicità suggerito da questo brano che ci porta in un'altra dimensione, no? Nella coppia. Perché no? Perché no? Il bello poi delle canzoni inevitabilmente è che ognuno trova un suo, come dire, un suo linguaggio, una sua spiegazione. Ma sicuramente Max Casacci, che è l'autore di questa canzone, fra l'altro musicista di Subsonica, bisognerebbe chiedere anche a Max cosa voleva esattamente intendere con questa canzone. Io la leggo appunto come una complicità, nel senso che ancora una volta si può rimandare a domani, semplicemente con uno sguardo, sicuri che appunto i due complici in qualche modo il giorno dopo saranno di nuovo lì pronti a mettersi, nel caso di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, in una macchina e ripartire per fare altri 200.000 chilometri. Petra, che dici? Tu quando hai cantato Rimando, che cosa sentivi dentro? Perché immagino che sia fondamentale, quando diciamo l'hai interpretata magnificamente, che cosa ti passa per la testa, per il cuore? Beh, sicuramente In questa canzone, vabbè, come in tutte le canzoni, quando sono con Ferruccio c'è la complicità di noi due, ma nella veste di interpreti, tutti e due, ma in particolare io, che sono quella che poi dice delle parole, ovviamente in questa canzone in realtà c'è quasi una rinuncia ad avere una complicità sentimentale, in questo caso con qualcuno, perché rimandando le decisioni, rimandando le scelte, rimandando tutto, poi alla fine c'è questo senso di solitudine in realtà nel personaggio della canzone, no? Quindi questo non avere un complice nella vita sentimentale, che poi però non averlo neanche appunto nel lavoro o in quelle che sono il quotidiano, insomma. Certo, questo è un tema caro ad Alberto, perché ho visto già, conoscendolo, ho visto già che la sua testa andava iniziava a correre dietro dei pensieri. Alberto, sì, direi che poi forse la tristezza del rimandatario cronico è proprio la sua totale incapacità di costruire vere e proprie complicità, cioè in qualche modo non c'è mai un progetto che può essere nel qui ed ora, c'è sempre un qualcosa che dovrà venire, perché non puoi costruire adesso quello che vai cercando, e probabilmente anche perché sei molto solo e molto isolato, esattamente proprio l'opposto della, dell'avere delle sane complicità che diventano poi molto propulsive. Io ho sempre l'occhio puntato un po' sull'età evolutiva, trovo un'età straordinaria proprio perché si poggia poi sulla capacità di diventare complici. Quando sei piccolo devi avere una straordinaria complicità con mamma e papà, dopodiché diventare grande significa abbandonare la loro complicità, che è una complicità protettiva, ed entrare nella complicità con il gruppo degli amici, che è una complicità esplorativa. E uno che fa il mio mestiere, lo psicoterapeuta, il problema enorme si pone quando tu scopri che quel bambino poi diventa un ragazzino che non ha complici, cioè che è lì completamente solo, e alla fine rimanda tutto, rimanda la crescita, e rischia di rimanere poi uno straordinario bamboccione proprio perché non ha nessuno con cui costruire un progetto che faccia bene alla sua esistenza. E quindi la complicità è proprio un ingrediente fondamentale di crescita e di realizzazione e anche di autorealizzazione. Dalla complicità, dalla sana complicità, nascono buone collaborazioni, nascono successi. Direi la complicità è d'oro. Può essere oro anche quest'anno! Può essere vinto! Sì, sono più di 70 punti! E la Cagnotto, che doppi e mezzo ritornati che tira fuori! 72,90! Sì, medaglia d'oro per la gioia di mamma Carmen, che ancora non se ne è resa conto. Non lo sanno ancora. Cagnotto papà, Aur, è ancora oro! 320,40 per Cagnotto dalla Pè! Oro consecutivo nel sincro, sono imbattibili in Europa da quando gareggiano assieme. Imbattibili in Europa da quando gareggiano insieme. In linea abbiamo Francesca Dalla Pè. Ciao Francesca, che soddisfazioni che ci date. Ciao a tutti, grazie mille. Senti, io ho pensato a te, ho pensato a voi, a te e a Tania, perché vedendovi gareggiare in una disciplina, quella del sincro, che per forza di cosa crea complicità tra le atlete, volevo proprio capire come è nata questa complicità, che direi d'oro tra di voi. Comunque prima di iniziare a fare il sincro già eravamo amiche e condividivamo gli stessi interessi. Poi è nata anche questa cosa del sincro che ha rafforzato la nostra complicità e questo ci ha portato comunque a essere anche diverse dalle nostre avversarie e poterci permettere di raccogliere delle belle soddisfazioni. Grandi soddisfazioni, direi, Francesca. Ma tu come hai capito che Tania era una collega, poteva diventare un'amica, poteva diventare veramente tua complice in questa disciplina e anche un po' nella vita, no? Perché penso sì, che poi siate veramente amiche anche nella vita, oltre sì, che... Sì, esatto. No, lei mi ha dato una dimostrazione molto grande agli Europei di Roma 2009, dove avevamo iniziato a fare questo sincro da qualche mese, da 5-6 mesi, e io ero un po' agitata perché comunque avevo una forte tensione perché facendo una gara con una campionessa avevo paura di farla sbagliare. E lei invece mi ha detto: stai tranquilla che io sono più sicura dei tuoi tuffi che dei miei, io mi fido di te e vedrai che andrà tutto bene. E questa è stata una grande conferma e da lì ho capito che sarebbe stata la mia collega ideale appunto per il sincro. E Francesca, devo dire che non hai sbagliato, hai avuto naso, eh? Eh sì. Senti, una complicità simile a quella che hai con Tania, ce l'hai con altre persone nella tua vita? Vabbè, con le persone mie più care, la mia famiglia e il mio fidanzato, poi sì, ci sono qualche amica di infanzia con cui sono cresciuta, che conosco da quando ho 5-6 anni. Molti dei nostri ascoltatori ci scrivono complicità e saper ridere insieme. Secondo te complicità che cos'è? Secondo me complicità è lealtà, fiducia, rispetto e sicuramente anche ridere insieme, divertirsi nelle cose che si fanno insieme. Grazie Francesca per essere stata grazie con noi. Buona giornata. Altrettanto. Un abbraccio. Alberto. Guarda, io questa trovo... Questa è stata Francesca, ci ha detto delle è cose belle. È veramente emozionante. E tra l'altro io credo che lo sport e la musica, quando la musica è musica di gruppo, musica in un'orchestra, siano due esempi incredibili dove la complicità è il servizio di un progetto di squadra e quindi devi far funzionare l'armonia, la sincronia, la sintonia e naturalmente la relazione. Mi interesserebbe molto capire anche qual è il livello di complicità semplicità che due musicisti come Musica Nuda, cioè come Ferruccio e Petra, trovano con il loro pubblico nel momento del concerto. Beh, senz'altro nel momento del concerto è un momento in cui torna immediatamente quello che stai dando, mentre quando registri in studio devi essere, cioè sei, in questo caso siamo io e Ferruccio e i fonici che lavorano con noi, ma siamo diciamo soli, magari uno può anche autoconvincersi di star facendo una cosa bella, no? E invece poi scoprire quando poi porti davanti alla gente che magari non era così bella. Quando sei in concerto ti rendi immediatamente conto, c'è un riscontro immediato di quello che fai, di quello che dai soprattutto, e la cosa bella di un concerto è che poi appunto anche il pubblico diventa complice, perché a seconda di quello, di come reagisce il pubblico, di quello che dà, noi poi diamo di conseguenza. Ci sono dei concerti dove finiamo tutti a ridere come matti, ci sono concerti invece dove il pubblico magari resta un po' più in tensione per poi liberarsi solo all'ultimo, e che quindi ci vedono anche noi restare un po' più, non sulle nostre, ma sicuramente un po' meno sbracati, meno come se fossimo in una famiglia. E questo è anche il bello, ovviamente, di poter fare concerti diversi a seconda di quello che accade. Il concerto non lo fa mai solamente chi sta sul palco, c'è sempre uno scambio. Essere e benessere. Non c'è niente più da dire, non c'è niente più da fare, qua nessuno sa più lavorare. Se sbagliassi troppe note, se sbagliassi troppo anch'io, nessun altro acquisterebbe più un biglietto del mio duo. Il problema è proprio questo, poi nessuno sa più fare un lavoro fatto bene o perlomeno il suo lavoro. Come si chiama questo duo? Musica Nuda. Musica Nuda, in linea con noi Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. Divertente questo brano. Come l'avete gestito? Che cosa, chi è dei due più vicino a quello che racconta nella realtà? Questa canzone è nata praticamente nell'appartamento che io un paio d'anni fa avevo acquistato, chiaramente accollandomi un mutuo a 25 anni come gran parte degli italiani, e quindi come gran parte degli italiani pensavo che nel momento in cui tu compravi un appartamento, soprattutto se questa casa era nuova, avevi risolto parecchi dei tuoi problemi. Invece i problemi iniziavano da lì, perché purtroppo tutto quello che avete sentito nella canzone è tremendamente vero. Un idraulico che ti monta la doccia al contrario, l'antennista che ti dirige la parabola in un'altra direzione, il battiscopa che non in una casa nuova che erano rocce, tutto così. Poi chiaramente confrontandomi con Petra è stato facilissimo allargare il testo, perché come potete confermarmi anche voi, purtroppo uno dei problemi maggiori della nostra Italia è questa mancanza di professionalità in ogni settore, appunto dal meccanico al consulente finanziario, passando per il gommista. E lasciami dire, Nicoletta, che io lo capisco Ferruccio, perché ho ristrutturato anch'io da poco la casa dove siamo andati a vivere, e credo che questo sia uno dei problemi principali che abbiamo in questo momento quando ci interfacciamo con qualcuno che deve fare un lavoro per noi. Cioè, sarebbe necessario essere un po' complice, invece ti trovi dal primo momento a dover fare la guerra. Sì. La guerra sul preventivo è data per scontato, sì, ma poi una volta che sei, sì, disposto a pagare quello che ti chiedono, comincia la seconda guerra, cioè la guerra per far fare quello che ti hanno promesso che dovrebbero fare e fare bene. E invece, ecco, la casa poi è uno straordinario cantiere dove vedi tutta questa mancanza di professionalità, questo correre, correre, correre di un sacco di gente che deve fare un milione di cose alla velocità della luce. E tutto questo, secondo te, potrebbe essere risolto con un pizzico di complicità? Ma io credo che sia molto importante quando c'è un contratto. Il contratto mette già davanti due persone che devono diventare due complici intorno a quel contratto, non due nemici. Se ci sento un avvocato, non so se un avvocato sarebbe d'accordo su quello che gli stiamo dicendo, ma insomma delle alleanze chiare. Poi quando... Però io volevo chiedere a Petra e a Ferruccio, che sono una coppia di complici e quindi lavorano e la loro complicità aumenta e si rinsalda di brano in brano. Qual è un po' l'ultimo segreto che ci vogliono dare a chiusura di questa nostra trasmissione, in cui abbiamo esplorato la complicità, abbiamo parlato di complicità, quella salutare che ci aiuta a crescere, a mettere fuori il meglio di noi, insomma una complicità che ci fa bene. Poi magari parleremo delle complicità, quelle che magari sono più intriganti ma alla fine che ci scavano e ci dissanguano. Beh, sicuramente uno dei diciamo segreti, anche se poi il segreto non è, ma anzi sembra basilare, è credere tutti e due molto nel progetto che stiamo portando avanti, un progetto che sulla carta era assolutamente strambo, assurdo, e nessuno ci avrebbe scommesso, avrebbe creduto così tanto nel progetto, forse neanche noi poi. Ma è un altro segreto, secondo me, ma credo che Ferruccio sia d'accordo, è anche quello poi di ritagliarsi invece anche degli spazi sia diciamo di rare ormai vacanze, o comunque di spazi privati che ci lasciano riposare ognuno per conto suo, ma anche spazi artistici, di altre collaborazioni. Per esempio io ho collaborato con l'orchestra di Piazza Vittorio in una rilettura del Trotto Magico di Mozart, Ferruccio ha fatto un disco di musiche brasiliane insieme a dei musicisti brasiliani e italiani, quindi ritagliarsi degli spazi che poi inevitabilmente fanno provare esperienze nuove e nuovi stimoli che poi di conseguenza riportiamo anche nel nostro progetto in duo e quindi nella nostra complicità, che comunque ha bisogno appunto anche di certo, spazi, di energia nuova. Sì, la complicità tra due persone si alimenta anche delle energie che i due complici fanno in ambienti, in situazioni altre, diverse. Alberto, quindi, meno male che tu fai università, no? La psicoterapeuta. Vedi, questa vedi è una, come sei, una fortuna della mia vita. Allora, ricordo ancora ai nostri amici da casa di iscriverci, essere benessere @radio24.it, e vi ricordo che anche oggi c'è il nostro consiglio: entrate nel nostro Daily Lab per allenarvi, imparare a diventare protagonisti del vostro benessere come ogni giorno. Un consiglio del nostro esperto da mettere subito in pratica. Intanto un abbraccio a Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, grazie per essere stati con noi, buonissima grazie giornata, buona musica. Grazie a voi, ciao Alberto, e noi ci sentiamo prestissimo. E vi ricordo, prima di salutarvi, che oggi 24 marzo è la giornata mondiale della tubercolosi, malattia a cui abbiamo dedicato un approfondimento sul nostro sito. Andate a leggerlo e passate intanto che ci siete dal nostro Daily Lab. Buonissima giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.